Capitolo 24. Venezia, 10 aprile 1547. Joao e Bernardo Miquez si stagliano sulla porta come due giganti rispetto al piccolo uomo stempiato che fa capolino in mezzo a loro, contrabbandiere di libri ed esperto di vini. Mi saltella incontro, afferrando la mia mano tesa. «È davvero un piacere, vecchio mio. Non puoi nemmeno immaginare cosa ci è capitato. Le vendite sono andate a gonfie vele, praticamente in casa del cattolicissimo imperatore, ma cazzo, il Sant'Uffizio non ci voleva proprio!» Freno la lingua di perna, salutando i due fratelli. «Bentornati!» Una pacca sulla spalla. «Spero non ci lascerai all'asciutto. Abbiamo fatto pochissime soste durante il viaggio. Prendo una bottiglia, sedetevi e raccontatemi tutto!» Perna agguanta una sedia e attacca. «L'abbiamo scampata bella, cazzo! Stavano per farsi il tuo amico giudeo, sì sì, adesso se la ride, ma se l'hai vista brutta, te lo dico io. E se non era per i soldoni sonanti che ha sborsato a quel frataccio, altro che brindare, capito? Adesso stava a far compagnia ai topi nelle segrete di Milano. Con calma, spiegatemi tutto dall'inizio.» Perna si mette buono, le mani frementi sul tavolo. È Bernardo a parlare, mentre Joao sfodera uno dei suoi sorrisi accattivanti. «L'Inquisizione l'ha tenuto in stato di fermo per 3 giorni. L'hanno accusato di vendere stampa eretica.» Guardo il maggiore, che invece resta zitto, e fa continuare il fratello. «Un sacco di domande. Qualcuno deve aver fatto la spiata. C'è andata bene. È bastato allungare i soldi alle persone giuste e l'hanno rilasciato. Non era gente seria. Ma un'altra volta potrebbe non andare così liscia.» Un istante di silenzio. Perna freme. Aspetto che Joao dica qualcosa. Incrocia le dita affusolate, poggiando i gomiti sul tavolo. «Esagerano. Quelli non sapevano niente del beneficio, solo sospetti generici. Qualcuno ha fatto il mio nome e mi sono venuti a cercare, tutto qui. Se davvero avessero fiutato una pista, non avrebbero accettato i miei soldi.» Un gesto di scherno. «O avrebbero chiesto di più.» Il nostro libraio scoppia. «Sì, sì, la fa facile lui, ma dobbiamo stare attenti. Lo so anch'io che non sapevano un cazzo, quei 4 corvacci. Ma chi ci torna a Milano adesso? Chi? È una piazza bruciata, terra che scotta, capito? Tutto il ducato, chiuso, Nisba. Non possiamo più metterci piede, a nostro rischio e pericolo. Come recuperiamo gli incassi delle partite che abbiamo consegnato?» Joao lo tranquillizza. «Ci rifaremo da un'altra parte.» Verso il secondo giro di vino. «Per un po' lasciamo perdere Milano. Comunque teniamo tutti gli occhi ben aperti. L'Inquisizione si sta organizzando meglio. Paolo III è un pavido, un maneggiatore, ma non durerà in eterno. Sul prossimo Papa si giocheranno tutti i destini, anche i nostri.» I tre soci annuiscono all'unisono. Non c'è bisogno di dire altro. Condividiamo gli stessi pensieri.